GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La visita di Giorgia Meloni a Pordenone ha lasciato il segno nel dibattito politico. Per la maggioranza di centrodestra la firma degli accordi rappresenta la concretezza della politica. Non risolvono le emergenze, sono uno spot per la campagna elettorale, invece per il centro-sinistra. Indagato per omicidio colposo, il medico del pronto soccorso pediatrico di Pordenone, che ha visitato la 12enne statunitense morta 2 giorni dopo nella sua abitazione, aveva riportato un trauma durante un allenamento di football americano. Martedì verrà eseguita l'autopsia. Le conseguenze della crisi nel Mar Rosso cominciano a farsi sentire sui traffici portuali, ma le ripercussioni a Trieste non sono ancora particolarmente rilevanti. Un futuro per Borgo Stazione a Udine ha avviato un progetto di generazione urbana presentato oggi agli amministratori pubblici. 14 relatori che intervengono al TED for Udine, appuntamento dedicato alla diffusione delle idee più innovative. Sbilanciati, il tema dell'edizione è dedicata agli squilibri nelle relazioni, ma anche nel mondo economico, in quello del lavoro. Al MIB di Trieste presentati i Master di Management tra i partecipanti all'Open Day, molti professionisti con una carriera già avviata. Al PAF di Pordenone inaugurata la mostra dedicata al disegnatore statunitense Chris Ware, presente per l'occasione. 200 le tavole originali, tra cui le copertine del New Yorker Magazine. Buon pomeriggio da Maria Spezia e Andrea Covri in studio per questa edizione del giornale radio regionale. In apertura i riflessi politici della visita in regione della Premier Giorgia Meloni. Il centrodestra saluta gli accordi siglati ieri come la concreta dimostrazione dell'interesse nei confronti di famiglie e imprese. Per il centrosinistra invece si tratta dell'avvio della campagna elettorale, mentre le emergenze attendono ancora una soluzione. Le critiche dopo la visita della Premier Giorgia Meloni a Pordenone arrivano dalle voci femminili dell'opposizione. Per la segretaria regionale del PD Conti, la Premier è venuta per dare il via alla campagna elettorale del suo fedelissimo alle europee e l'endorsement a Ciriani, afferma, è stato condito da una buona spruzzata di milioni. Secondo Conti, il ruolo istituzionale di Meloni è sempre più al servizio degli interessi di Fratelli d'Italia. Dello stesso segno la coordinatrice regionale dei 5 Stelle. Secondo Danieli, se venire di persona a Pordenone a firmare con le fanfare lo stanziamento per il Friuli Venezia Giulia dei fondi per lo sviluppo e la coesione, che è un atto dovuto e non un'iniziativa del governo, equivale a dare l'imprimatur al sindaco Ciriani per la sua corsa alle europee. Le risorse destinate a opere di adattamento ai cambiamenti climatici sono comunque una buona notizia per il capogruppo in regione del patto per l'autonomia Moretuzzo, che però dal governo si aspettava buone notizie anche sui ristori per i danni da eventi climatici del luglio scorso nel Medio Friuli. Dal centrodestra il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Rizzetti ribatte: siamo vincenti sia come regione sia come paese, e il merito è del presidente Meloni e di questo governo, che hanno rimesso al centro della loro azione le famiglie, i lavoratori e le imprese, oltre ad averci restituito dignità a livello internazionale. Rizzetto poi ringrazia tutti per il lavoro svolto e richiama l'importanza dell'accordo per la regione. D'accordo il segretario regionale della Lega Dreosto, che sottolinea anche il legame forte tra governo e regione e rileva come la buona amministrazione della Lega in Friuli Venezia Giulia sia stata riconosciuta da Roma e confermi l'utilità dell'autonomia differenziata proposta dalla Lega. La firma dell'accordo tra governo e regione è un pilastro per il futuro del nostro territorio, simbolo di un grande lavoro di squadra, dichiara infine la sottosegretaria al Mise Savino. La forzista ringrazia Meloni per aver testimoniato grande attenzione nei confronti di una regione che ieri, rimarca, ancora una volta con chiarezza è emerso essere un modello da seguire. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: c'è un indagato nella vicenda della ragazzina di 12 anni trovata morta nel suo letto il 5 marzo scorso a Prata di Pordenone. È il medico dell'ospedale civico di Pordenone che l'ha visitata 2 giorni prima della morte, il 3 marzo. La piccola, cittadina statunitense e figlia di militari della base USAF di Aviano, venerdì 1 marzo si era scontrata fortuitamente nel corso di un allenamento di football americano. Inizialmente era sembrato soltanto un trauma al ginocchio sinistro, ma 4 giorni dopo la piccola è stata trovata morta a letto dal papà e dalla sua compagna nella loro abitazione di Prata. Al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Pordenone la 12enne era stata sottoposta a una visita generale a una ortopedica, definite molto accurate, eseguendo anche radiografie ed ecografie al ginocchio. Non era stata individuata alcuna complicazione, dunque la ragazzina era stata dimessa con la prescrizione di un antidolorifico e qualche giorno di riposo. Intanto la PM titolare del fascicolo, Federica Urban, aperto per il reato di omicidio colposo, Raposo ha nominato un collegio di consulenti tecnici che dovranno eseguire l'autopsia allo scopo di accertare tempi, cause e modalità del decesso e eventualmente se ci sono state colpe, errori o omissioni nelle pratiche medico-sanitarie e inoltre se si fosse potuto evitare il decesso. Lunedì sarà conferito l'incarico, il 12 marzo è previsto l'esame autoptico. Ora l'economia, la crisi del Mar Rosso continua a penalizzare gli scambi commerciali e il transito delle merci in arrivo al porto di Trieste, ma i danni sono ancora contenuti. Finora non ha ancora avuto gravi ripercussioni in Friuli Venezia Giulia la crisi nel Mar Rosso, che da ottobre a oggi ha registrato l'impennata dell'84% dei passaggi via mare lungo il Capo di Buona Speranza. Negli ultimi 12 mesi, infatti, secondo uno studio dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA di Mestre, si contano solo 9 navi mercantili in meno al porto di Trieste arrivate dal sud-est asiatico rispetto all'anno precedente, passate dunque da 350 a 341. Una flessione che si traduce in un segno meno del 2,6% sugli affari di import-export dello scalo giuliano, calcolabili in 3 miliardi e mezzo di euro a fronte di un bilancino pressoché in equilibrio degli scambi, con i paesi influenzati dal conflitto acceso dai ribelli yemeniti Houthi. Numeri quindi contenuti se si considera la diminuzione del 40% dei passaggi dal canale di Suez e più a sud del 50% dallo stretto di Bab el-Mandab, nonostante i tempi più lunghi e i costi maggiori richiesti dalla nuova rotta che passa dal Sudafrica, ma consente di evitare gli attacchi Houthi. Diverso il discorso per gli altri porti italiani, si stima infatti che il porto di Genova e quello di Livorno abbiano registrato una diminuzione del 10% dei traffici, mentre quello di Venezia sia stato colpito da una contrazione del 6%. La situazione però è in divenire, perché le incertezze in Medio Oriente sono pesantemente influenzate anche dalla guerra nella striscia di Gaza, che potrebbe estendersi anche nelle aree limitrofe ai passaggi marittimi. In regione è basso il livello di conflittualità tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, secondo quanto rilevato da un'impresa, la Confederazione Generale delle Imprese Italiane, con un valore di 2.600.000 euro il Friuli Venezia Giulia agli ultimi posti nella classifica delle richieste di risarcimento danni presentate nel 2023 da aziende e cittadini contro le pubbliche amministrazioni. Valori inferiori a quelli della nostra regione si registrano solo in Molise, nelle province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta. In Friuli Venezia Giulia nel 2023 sono stati 26 i procedimenti avanzati presso la Corte dei Conti. La gestazione di Essiccatoie FVG è vicina al traguardo finale della sua nascita. Un nuovo gruppo della cerealicoltura friulana targato Confcooperative FVG. 4 le strutture della regione che hanno deciso di mettersi insieme in un'unica impresa cooperativa, cioè Essiccatoio Bozzoli di Palmanova, Essiccatoio Torricella di San Vito al Tagliamento, Essiccatoio Torre Natisone di Remanzacco e Granaio Friulano di Fagagna. Al termine del progetto di fusione, che si concretizzerà entro i prossimi 3 mesi, Essiccatoie FVG potrà contare su 8 impianti di essiccazione di cereali, 9 centri di raccolta, 22 colonne essiccanti con una produzione potenziale di 113.000 quintali giornalieri. Il centro di Gorizia è stato teatro stamattina di una manifestazione organizzata dalla Tavola per la Pace del Friuli Venezia Giulia e da Pax Christi. Al centro dell'attenzione la situazione nella striscia di Gaza e il conflitto in Ucraina. Dal Medio Oriente all'Ucraina e non solo, pacifisti contro tutte le guerre insieme per manifestare a Gorizia sotto la bandiera del Comitato per la Pace. In Corso Verdi varie associazioni hanno voluto ritrovarsi per portare l'attenzione sui morti di Gaza, oltre 30.000 è stato sottolineato, e su quelli della guerra in Ucraina al suo secondo anno, puntando il dito, secondo gli organizzatori, sulla volontà di continuare con la guerra, inviando armi invece di cercare una via negoziale. Caos della guerra che riguarda tutto il mondo, coinvolto in 84 conflitti, a dirlo Sergio Pratali Maffei, Agorè, che ha mostrato le croci a terra raffiguranti i paesi in guerra e quelli invece esportatori di armi, una classifica dove gli Stati Uniti sono al primo posto mentre l'Italia è al quinto, spiega l'attivista per la pace. Viene chiesta anche una nuova legge regionale, si legge in un volantino un no al nucleare militare in Friuli Venezia Giulia. A chiudere l'iniziativa le parole di Andrea Bellavite del Comitato per la Pace di Gorizia, che invita a manifestare per portare all'interesse della politica la volontà di cessare i conflitti. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ha dimostrato di avere un grande coraggio la giornalista bielorussa, politologa, attivista per la pace e per i diritti umani civili, dissidente politica più volte incarcerata, che oggi vive in esilio in Lituania, da dove prosegue la sua attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani in Bielorussia. La donna è stata ospite di un incontro a Trieste. Le dittature non si costruiscono dall'oggi al domani, ma giorno dopo giorno togliendo una libertà alla volta. È il monito di Olga Karach, giornalista bielorussa, politologa e attivista per la pace e per i diritti umani, incarcerata e torturata più volte fino a quando è riuscita a fuggire all'estero. È arrivata a Trieste nella penultima tappa di un giro in Italia culminato a Vipiteno, dove ha ricevuto il premio intitolato ad Alexander Langer. In Bielorussia la situazione peggiora sempre di più. Ogni giorno ci sono 10-15 arresti. Si può essere arrestati anche per aver postato un commento sui social network. Il paese, guidato da 30 anni da Alexander Lukashenko, è sempre più legato alla Russia, di cui costituisce la retrovia del conflitto con l'Ucraina. Ed è un paese nel quale, dice Karach, ricordando l'8 marzo, la situazione femminile è quanto mai critica. In Bielorussia abbiamo la lista di forbidden professions for women. Per esempio, c'è una lista di 186 mestieri proibiti alle donne e quelle in prigione per reati politici sono 250. In generale, lo Stato vuole controllare le donne a ogni livello, compresa la patente di guida. Per averla bisogna portare un certificato di un ginecologo che attesta che non sia incinte. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Dare un nuovo volto a Borgo Stazione a Udine con proposte di rigenerazione urbana è lo scopo di un percorso avviato in un primo appuntamento molto partecipato che ha visto oggi la presentazione agli amministratori locali di ipotesi concrete. Per chi arriva col treno è il biglietto da visita della città di Udine. Al centro di un incontro, lo spazio 35, le proposte per una nuova primavera per Borgo Stazione, il quartiere delle Magnolie, peraltro in fiore in questi giorni, per ricucirlo al resto del tessuto urbano. 64 popoli che coabitano in un fazzoletto di terra, 13 vie, che ha cambiato nome nell'immaginario da quando sono arrivati gli stranieri, ha sottolineato il sociologo Marco Rioles tra gli organizzatori dell'incontro. Qui, come emerso dai dati presentati, nel complesso il 40% dei 2200 residenti è di origine straniera, una percentuale quasi tripla rispetto alla media della città e più che quadrupla rispetto al resto del Friuli Venezia Giulia. C'è anche chi in questi dati però non rientra, come chi dorme in stazione. Allo spazio 35, piena la sala, presentate ai politici dell'attuale giunta e dell'opposizione alcune ipotesi di rigenerazione di cui da tempo si parla nel quartiere, una sorta di periferia nel centro, ma che invece vuole essere punto di riferimento anche per le politiche culturali del comune, che troppo spesso in passato si sono fermate in via Vittorio Veneto. Frontiera e anche in virtù di questo possibilità di essere laboratorio. Concrete le proposte di rigenerazione urbana, come infrastrutturare il giardino Pascoli e collegarlo con la scuola antistante, favorire l'utilizzo del cortile della primaria Alighieri anche in orario extrascolastico, riqualificare le palazzine Liberty e farne punto di incontro per i consigli partecipati del quartiere, ma anche istituire mediatori culturali di strada tramite un progetto di servizio civile che possa formarne una trentina. Una residente chiede un parcheggio di struttura per sviluppare l'intermodalità, dall'imam della moschea piena collaborazione per fare anche della moschea un punto di incontro e di scambio per il quartiere. Dal vice sindaco Venanzi, presente assieme ad altri 5 assessori, l'impegno dell'amministrazione a dialogare con le associazioni locali per fare del quartiere non più un luogo di transito, bensì un luogo di destinazione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È sbilanciato il tema dell'edizione di quest'anno di TED for Udine, sigla che indica la californiana Technology Entertainment Design, dedicata all'organizzazione di eventi con l'obiettivo di diffondere le idee più innovative. Oggi al Palamostra l'appuntamento che pone sotto la lente di ingrandimento la perdita di equilibrio del nostro tempo. 14 relatori che si stanno intervenendo per 15 minuti ciascuno. Tra gli interventi quello di Riccardo Maggiolo, fondatore del portale di ricerca lavoro Job Club, che si sofferma sul tema dei cambiamenti del mondo dell'occupazione. Gli abbiamo chiesto perché è così complesso l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Oggi gli annunci di lavoro e le agenzie, che sono il modo con cui le due parti cercano di entrare in comunicazione, intermediano appena il 10% del mercato. E la cosa peggiore è anche che mettono, non per mala volontà, semplicemente perché succede, mettono domanda e offerta del lavoro l'una contro l'altra, per non mettere in diffidenza. Quindi vediamo questi paradossi per cui si cercano persone ma non le si trovano, ma no perché non ci siano, oppure che persone che non riescono a cercare lavoro, ma perché lo cercano male, ma non è un problema tanto che sbagliano loro, è che la ricerca del lavoro è soprattutto un problema di emozioni. Io ho cercato lavoro, o quasi tutti nella vita, e sanno quanto è difficile, quindi il vero punto è far ritrovare la modalità alle persone di parlarsi al di fuori di schemi preconfezionati ma comodi, come possono essere gli annunci, come possono essere le agenzie per il lavoro e i mediati. Purtroppo la disoccupazione ti porta a isolarti e anche la ricerca di persone è il primo problema di chi le cerca, che si muove troppo tardi, perché si pensa che il mercato del lavoro sia come un meccanismo, come uno scambio logistico, ma non è così, perché è fatto di persone. E quindi dobbiamo rinnovare, rilanciare le relazioni e poi ovviamente anche imparare alle persone e alle aziende, anche e soprattutto, come si cerca il lavoro e come si cercano persone. Su quest'ultima cosa, se posso dire, le aziende per anni, decenni, gli è stato detto che dovevano muoversi per tempo su questo tema e onestamente la grande maggioranza non l'ha fatto. E adesso sta a loro rinunciarsi e investire su questa cosa, ma non semplicemente facendo programmi che a sua carità anche benedetti di non so, ambientali o di inclusione sociale, va benissimo. Ha cambiato proprio la cultura del lavoro nelle aziende e il modo in cui si mettono sul mercato. 160 i giovani che stanno partecipando alla presentazione dei master di management promossi dal MIB di Trieste. Almeno il 30% dei partecipanti all'Open Day è rappresentato da persone con una carriera già avviata. Tra i 160 partecipanti all'Open Day del MIB ci sono neolaureati, ma oltre il 30% sono anche persone in carriera convinte che un master accreditato a questo punto del loro percorso potrebbe premere sull'acceleratore della loro crescita professionale. Per chi già lavora, il MIB da anni propone una serie di master executive di 22 mesi da frequentare nei fine settimana, ma ci sono anche i master a tempo pieno. L'Open Day è un'occasione per comprendere qual è l'indirizzo del master più calzante per le proprie aspirazioni, ma anche con quali aziende si può entrare in contatto attraverso il MIB, una scuola manageriale che attraverso i suoi docenti è sempre attentissima alle competenze più richieste dalle aziende, e tra queste c'è indubbiamente l'intelligenza artificiale che fa parte del curriculum degli alunni del MIB, come ci dice Francesco Venier, il Dean responsabile dell'educazione executive. Naturalmente usiamo l'AI anche come strumento di formazione sull'AI, abbiamo diversi corsi, soprattutto executive per grandi aziende, in cui abbiamo costruito assieme all'azienda dei profili professionali nuovi, ma forse il corso più interessante in questo ambito è il corso per i cosiddetti business translator, che sono manager che vengono dal business e che vengono formati per acquisire il linguaggio più che le tecnicalità dell'intelligenza artificiale, capire cosa può fare, cosa non può fare, capire le difficoltà di implementarla e quindi le sfide che loro hanno davanti se vogliono portarla nei loro processi, ma per trasformarli proprio in traduttori del linguaggio tecnologico nel linguaggio del business e produrre quindi valore più facilmente con questo tipo di tecnologia. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.48, passiamo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 9 gradi, a Pordenone 10, a Gorizia e Udine 8 gradi, in area montana Tolmezzo 4, Tarvisio 1 grado e 5 decimi, Piancavallo, Forni di Sopra e Sappada 5 decimi di grado positivi, in quota sul monte Zoncolan 2 gradi sotto lo zero e sul monte Lussari 1 grado e mezzo sotto lo zero, sulla costa Grado 9 gradi e mezzo e a Lignano 8 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA FVG, il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse e moderate, anche abbondanti sulle prealpi Giulie, con rovesci temporaleschi, specie verso la costa, quota neve in rialzo fino a 1300 metri, a largo sul golfo, soffierà scirocco moderato. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, con possibili schiarite su costa e pianura occidentale. Autostrade Alto Adriatico informa che nella serata tra oggi e domani verrà effettuata la rimozione di due portali segnaletici sull'A4 in direzione Trieste, in avvicinamento alla barriera dell'Isert. Per consentire le operazioni dalle 19 nel tratto compreso tra Redipuglio e Monfalcone Est, verrà chiusa la corsia di emergenze di marcia con spostamento del traffico sulla corsia di sorpasso e dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani verrà chiusa la carreggiata in direzione Trieste nel tratto interessato dai lavori. Per questo motivo i mezzi diretti a Trieste dovranno uscire a Redipuglio e rientrare dallo svincolo di Monfalcone Est. C'era anche il disegnatore statunitense Chris Ware all'inaugurazione della mostra a lui dedicata dal PAF di Pordenone. Questa mattina è avvenuto il taglio del nastro. È uno degli autori tra i più acclamati dalla critica del fumetto mondiale. Chris Ware è il protagonista della nuova mostra allestita al PAF, il Museo Internazionale del Fumetto di Pordenone, dal titolo La prospettiva della memoria, visitabile fino al 12 maggio, oggi l'inaugurazione alla presenza dell'autore. Marco Dabbai, presidente del PAF. Chris Ware è assolutamente il più riconosciuto fumettista a livello veramente internazionale, per cui è il fumetto contemporaneo. Lui veramente ha preso il mondo del fumetto, l'ha reinventato in maniera assoluta e si vede in questa mostra dove avete tutta proprio la sua vita. L'esposizione pordenonese è la quarta versione internazionale della mostra a lui dedicata. La scoperta dell'autore comincia dalle grafiche realizzate appositamente da Ware per il PAF, con evidenti riferimenti alla città di Pordenone. Nei due piani del palazzo viene svelato il sorprendente mondo di Ware attraverso 200 tra tavole originali delle sue opere più importanti, tra cui le copertine del New Yorker da lui illustrate, oltre a schizzi, prove, pubblicità e oggetti vari legati alla sua produzione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con lo sci alpino di Coppa del Mondo, ennesima uscita per la Trevisiana Lara della Mea nel gigante di Öre in Svezia. La portacolori dell'esercito era partita bene, ma un errore dopo le prime porte l'ha fatto uscire anticipatamente dal tracciato. Della Mea sarà di nuovo in pista domani, sempre a Öre, per lo slalom prima mancia alle 10.30 con diretta su Rai Sport. Alcuni appuntamenti: la mostra Calogero Condello, pensiero tridimensionale, classicità e futuro, sarà inaugurata a Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio alle 18. L'esposizione di Dante Pisani, Idee in dissolvenza incrociata, sarà inaugurata a Muggia al Museo d'Arte Moderna Ugo Carà alle 18. I libri, la poetessa e scrittrice Chiara Carminati presenterà il suo volume Nella tua pelle a Gradisca di Sonzo a Casa Maccari alle 17.30. Il romanzo Il tronco di ferro, in cui la parte finale è ambientata in vari luoghi di Trieste, sarà presentato dall'autore Fernando Campigli a Trieste a Palazzo Gopcevic alle 15.30. Andrea Zannini presenta il suo libro Contro storia dell'alpinismo a Forni di Sopra nell'ex municipio in Piazza del Comune alle 17. Lo chef Wild Davide Nanni dialogherà con il giornalista Gabriele Giuga per presentare il suo libro A Sentimento, la mia cucina libera, sincera, selvaggia, a Pordenone Fiere alle 16. Per gli spettacoli Anna Karenina, Le donne, la passione, il nuovo spettacolo della stagione della compagnia Anatema Teatro che debutterà a Osoppo al Teatro della Corte alle 20.45, regia di Filippo D'Alessio. Esibizione del violoncellista Enrico Bronzi con l'orchestra La Filarmonie, in programma musiche di Boccherini, Haydn e Mozart a Udine, l'auditorium della Biblioteca dei Rizzi, alle 18. Continua a Trieste la mostra dedicata a Stefano Furlan, il giovane tifoso della Triestina morto 40 anni fa dopo gli scontri con la polizia al termine di una partita di calcio. L'appuntamento è al magazzino 26 del Porto Vecchio alle 20.30. Ora i nostri approfondimenti domani mattina dopo il giornale radio delle 8.30 e su questa frequenza andrà in onda una nuova puntata di Vita nei Campi. Sentiamo di cosa tratterà. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non dalla domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura la nuova normativa europea in fatto di indicazioni geografiche. A seguire per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello intitolato Una ventata di petali bianchi, e per i legumi la liquirizia, pianta che ama il caldo ma è ora coltivabile anche da noi con semplici accorgimenti. E ancora, le tecniche del salasso e rimozione dei semi per la correzione del pigiato nella rubrica dei vini, per i grandi alberi una scheda sul maestoso tiglio del Palazzo Veneziano di Malborghetto e per lo spazio della gastronomia una proposta prettamente primaverile, il risotto con gli urticions, alias bruscandoli, alias luppolo. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre domani mattina sul primo canale Radio Rai alle 6.05, in televisione alle 11 su Rai 3, in diffusione nazionale, la rubrica Est Ovest, curata dalla nostra redazione. Ecco nel sommario. La violenza di genere in Serbia è un dramma indotto e giustificato anche dalla cultura popolare. Parla il fondatore di Solidarnosc, la Polonia che immagina e vorrebbe Lech Wałęsa. I motivi, l'ambiente familiare e culturale dello studente che ha fatto una strage all'Università di Praga. A Budapest esiste una ferrovia gestita dai bambini. L'unico adulto è il macchinista del treno. La Pinna Nobilis è scomparsa dai nostri mari. Il lavoro dei biologi croati, sloveni e italiani per salvare la specie. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. Si chiude qui questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Maria Spezia e Andrea Covre, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vassia Krismancic e Giampaolo Zucchi. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.